Zolt. Fulminati in azienda. Allora, vorrei capire che cos'è questa idea di una convention dedicata, cito testuali parole, all'armoniosa relazione tra colleghi, E il punto è che da un'analisi di clima esistono purtroppo sentimenti negativi nei confronti dei colleghi. Ma va? Mi vuoi dire che ci sono persone che non sopportano le persone con cui lavorano? Ma è incredibile, non me sarei mai aspettata sta cosa. Sì, per questo, per la prossima convention, volevamo proporre il tema ama il tuo collega come te stesso. Uè, oratorio, ama il tuo collega come te stesso, ma dai, ma guardate che nutrire astio o rancore tra colleghi è una cosa sana, alimenta la competizione. No, ma come sana? Dobbiamo aiutare l'integrazione, superare i pregiudizi interrelazionali. Ma di che stiamo a parlare? Quali sono i pregiudizi? Scusa. Allora ignori la discriminazione che viene quotidianamente Dai, praticata che parole grosse, nei confronti di alcune minoranze per il loro orientamento sessuale, la religione, la loro etnia. Allora, ho redatto un rapporto in Decor Blue carattere 12.7, ecco, nel quale illustro la composizione della nostra popolazione aziendale in termini di minoranze segmentate per hobby praticate nel tempo libero. No, scusami, non so se ho capito bene, ma mi vuoi dire che le persone sono discriminate per gli hobby che hanno quando sono fuori dal lavoro? Certo, ma hai idea di quanto sanno essere snob quelli che praticano il deltaplano nei confronti di quelli che la domenica vanno semplicemente a mangiare dalla suocera? E queste sì che sono discriminazioni razziali. Ascolta, super consulente, ma è mai possibile che io debba star qui a perdere il mio tempo per preoccuparmi di una convention di 2 giorni dedicata ai rapporti tra i colleghi, perché le maestranze non vanno d'accordo tra di loro? Ma dico. Come consulente devo dirti che con tutti i problemi che hai tu non puoi preoccuparti che le maestranze vadano d'accordo tra loro. Lo vedi che ho ragione, mi togli le parole di bocca. E allora dimmi come devo fare per fermare questa catastrofe, sta convention che tra l'altro mi costa un botto e mi porta via le maestranze per 2 giorni dal luogo di lavoro. Beh, togliere le persone per 2 giorni dal posto di lavoro potrebbe risultare dispendioso. Ma infatti hai ragione. E cosa facciamo? E come ho già realizzato in altre aziende con discreto successo, ti proporrei di istituire una casella di posta in cui tutti i dipendenti possono in modo anonimo mandare le loro segnalazioni per illustrare quali sono i comportamenti dei colleghi che non sopportano. Mi piace. E dopo? E poi con una direttiva unilaterale rendi tutti quei comportamenti deplorevoli e oggetto di una sanzione. Bello, bravo super consulente, mi piace. Una specie di vade retrunt dei comportamenti sgraditi. Allora colleghi, dopo un approfondito studio delle cause che influenzano negativamente gli armoniosi rapporti in ufficio, abbiamo redatto un efficace elenco di divieti. Leggi super paragone, via. Ecco quanto abbiamo raccolto attraverso la mail. 1. È vietato mangiarsi le unghie e sputarle nel cestino. Ma che schifo, giusto, andiamo avanti. 2. È vietato scroccare il caffè più di 3 volte a settimana. Silenzio, per piacere. 3. È vietato sfogare i propri problemi personali con il collega a distanza. Finalmente. 4. È vietato diffondere pettegolezzi sui colleghi senza una preventiva verifica dei fatti. Corretto. 5. È vietato chiedere aiuto o collaborazione ai colleghi sui lavori di propria responsabilità. Chiedo scusa un po' di attenzione. Sono vietati tutti i rapporti extraconiugali tra i colleghi. A meno che non innalzino anche il fatturato. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.